la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Sono immigrato, ma molti anni fa, di lusso, perché ero immigrato, da papà lavorava una multinazionale americana, non c'era una multinazionale in Italia la stessa, per cui non si può parlare di problema dell'immigrazione in questo caso. Inizia a 11 anni l'avventura italiana di Alberto Camerini, quando con la sua famiglia si trasferisce dal Brasile a Milano. Un cambiamento che racconterà anche in una canzone autobiografica dal titolo Alberto. Sono nato nel sole di un paese grande che libero forse non è stato mai. Un paese grande di gente felice, di grandi foreste e di grandi città. Brasile che a marzo al ritmo. Una storia, quella di Camerini, che dal cambiamento esistenziale trae linfa. A Milano la saudade del Brasile si trasforma in arte, grazie anche al caso. Camerini frequenterà il liceo Beccaria, incontrando ragazzi che diverranno la colonna musicale del nostro paese. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Antonello Vitale, Eugenio Finardi, Lucio Fabbri, futuro violinista della premiata Forneria Marconi, Ricky Belloni, che suonerà con i New Trolls, Lucio Bardi, oggi con Francesco De Gregori. Anni magici, quelli del Beccaria, sul finire degli anni 60. Una Milano che si prepara ad affrontare però periodi neri, ma che intanto fa nascere correnti musicali, influenza la moda e crea personaggi. Camerini, si capisce sin da allora, è un artista che anticipa i tempi. Sono gli anni di una contestazione ormai quasi sgangherata, quella degli anni 70, quando il 68 si spegne lento e rimangono happening al limite della follia, come il festival di Renudo che si svolge al Parco Lambro nel 75. Lì un giovane Camerini si esibisce da solo con la chitarra. È la prima volta che Alberto Camerini canta davanti a un pubblico così vasto e inizia da allora una stagione di successi. Un successo che gli cade addosso quasi inaspettato e poi all'improvviso scompare, così come lui stesso racconta. Guarda, il mio periodo più importante è il periodo che lavoravo con la CBS e ho fatto i brani di successo che ancora oggi sono, insomma, amati, seguiti, eccetera. Sì, lì è stato un trauma, però all'incontrario, cioè in positivo, è stato un periodo molto bello. Vabbè, poi come tutte le cose belle, anche tutti i giocatori, tutti i cantanti, dopo un po' lasciano la ribalta della stampa a altri personaggi più giovani o più nuovi o che ne ho più bisogno. Allora mi sono detto, ecco, molto spesso la stampa sembra che sia concorde con che quando parte un gossip o una notizia falsa o una barzelletta, diciamo così, sembra che siamo tutti d'accordo. I giornalisti praticamente dispongono di un potere magico per il quale sono così capaci di dare vita a delle favole, delle storie. Quando ho scoperto l'enorme era troppo tardi, ero già praticamente stato romanziamola, no? Ecco, ero già stato, diciamo, superato. Un'amarezza che non si scioglie e che forse è, nella vita di questo artista, la prima volta, il giro di boa, il segno che le cose, quella spensieratezza di un tempo, sono finite e che a un certo punto bisogna fare i conti con l'industria del successo e con una stampa che asseconda le mode e polverizza le carriere. Se il mondo ti confonde, non lo capisci. Ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra. La prima volta. Perché poi i miei amici erano Alberto Camerini, che era nato in Brasile perché i suoi erano scappati per le leggi razziali, Oliver Strimple, un altro ragazzo ebreo che era nato in India, vissuto in tutto il mondo, multilingue, erano personaggi. Demetrio Stratos, che era nato ad Alessandria d'Egitto pur essendo greco, era un mondo molto cosmopolita, no? Perché appunto mia madre frequentava le poche donne come lei che si trovava, no? Quindi i loro figli erano i miei amici. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. Attacchi la corrente, s'accende e partirà. Oh, rock and roll robot. Eugenio Finardi, grande amico di Alberto Camerini, racconta i giorni del liceo Beccaria di Milano e di una città piena di fermento e di artisti. Una città nella quale Alberto Camerini entra con forza, ricavandosi, grazie anche al suo talento, uno spazio importante. È un ragazzo, a 20 anni, quando comincia ad essere riconosciuto per la sua capacità artistica. Un chitarrista importante, un ragazzo pieno di idee che anticipa i tempi. Ma sarà negli anni Ottanta, quando con il passaggio all'etichetta CBS viene pubblicato l'album che contiene il singolo Rock and Roll Robot, che spianerà la strada a Camerini. Un successo che viene però subito congelato in un personaggio creato ad arte dall'industria discografica e che Camerini farà fatica ad abbandonare. Quell'arlecchino elettronico dal quale lo stesso cantante tenterà forse troppo tardi di liberarsi. Facciamo una intervista provocatoria. Cosa mi ha creato un trauma nella vita? La scoperta del potere, del quarto potere, del potere della stampa. Quando ho scoperto l'enorme era troppo tardi. Ero già praticamente stato romanziamola, no? Ecco, ero già stato, diciamo, superato. Ma il potere della stampa. Quello mi è sembrato una cosa abbastanza. Ogni tanto se ne parla, in tutti i sensi, la cosa non emerge in maniera chiara, ben definita, perché dovrebbe emergere attraverso la stampa stessa che, dichiarandosi, perderebbe il suo potere magico. Cioè, diciamo, la sua lozione avrebbe meno efficacia. Allora, uno dei problemi che, secondo me, uno dei traumi che ha cambiato un po' la mia vita è stato l'imbattermi come piccolo personaggio, piccolo, insomma, non diciamolo, cantante di rock and roll, del pop italiano, imbattermi in questo potere della stampa. E il potere della stampa non è dichiarato, ma quando io l'ho scoperto da solo, diciamo, è stato per me un po' un traumatico, basta, tutto qua. Ok, lei però è stato sempre un artista che ha anticipato molto i tempi. Oggi su che cosa sta lavorando? Grazie per il complimento, è molto difficile dire artista che... Ma oggi sto lavorando su delle cose, cioè, varie, sto scrivendo dei testi, dei racconti, un romanzo, cioè sto dedicando alla scrittura, alla letteratura italiana, alla letteratura, sto scrivendo. E poi ascolto molto, cioè, sintetizzo, paragono varie esperienze, eccetera, così più o meno. Quindi lei adesso in qualche modo è come se avesse deciso di dedicarsi artisticamente non più alla musica, o è semplicemente una pausa? Ma no, guardi, sto partendo per andare adesso a cantare una serata a Campione d'Italia, okay, che è il casino di Campione d'Italia in provincia di Como, a Lugano, con Tony Esposito e Lu Colombo, una serata anni 80. No, per fortuna... c'è sempre queste cose, la musica pop, così funziona sempre, ma quello che sto scrivendo, insomma, è un po' complicato, ecco, sì, sto scrivendo cose, canzoni, progetti segretissimi. Eppure, nonostante la rottura con un mondo, quello dello spettacolo, fatta di precipitose salite e dolorose cadute, ad Alberto Camerini resta una famiglia che in qualche modo lo rispecchia e lo gratifica. Ecco, ho una figlia che ha presentato un libro, una grandissima soddisfazione, che ha scritto lei, che è fra l'altro il secondo libro che scrive, eccetera, più un terzo che ha scritto come fantasma. Ma... E com'è stato essere padre? Una meraviglia, è stata una cosa bellissima, è stata una gioia enorme, perché in Esbono, poi io vengo da una famiglia unita, allora per me, insomma, è stata una cosa molto serena, molto piacevole. Poi, vabbè, poi ho divorziato, però i bambini comunque li ho. E sono artisti, anche loro hanno preso la sua vena in qualche modo, la voglia di sperimentare? Beh, sicuramente Valentina sì, perché se scrive letteratura, è già la scrittrice, è già di professione artista, cosa che fa un artista? C'è uno, già, per dire. E anche Lorenzo è così, forse è ancora presto per stabilire quale è ancora scelta la sua strada, ma ne ha tre o quattro tutte simili, vicini al mondo dell'arte, per cui no, sono molto felice di questo. Lei è molto lieve quando parla dei suoi figli, cioè, quindi è sicuramente stata una persona che non li ha caricati di quel senso di responsabilità, no, che molto spesso magari, cioè, il dover fare per forza, dover trovare per forza una strada. Ecco, per forza mica tanto, nel senso che non è nel mio carattere per forza, cioè lo trovo... con i figli, vabbè, ho avuto il problema inverso, cioè il problema di essere troppo, di dire sempre di sì. La prima volta finisce qui. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre di domenica, sempre dopo il giornale radio delle 13. Grazie ancora per essere stati con noi. Potete riascoltarci andando sul sito di Radio 24. Scriveteci all'indirizzo la prima volta @radio24.it. Buona giornata a tutti. Da Cristina Carpinelli. The greatest. this